Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo, per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo, per farci come vuoi. Buongiorno a voi e bentornati ad una nuova puntata di Questa casa non è un albergo, il programma per genitori, figli, in una parola per la famiglia di Radio 24. Saluto subito il mio coinquilino Alberto Pellai, medico ricercatore. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, oggi parliamo di una eccezionale forma di digiuno che molte adolescenti si autoinducono e che rappresenta una delle epidemie sociali che più spaventa le famiglie e tutti coloro che vivono a contatto con gli adolescenti. Un vero e proprio allarme, un fenomeno a cui tu hai dedicato tanti studi, ricerche, energie. Sì, parliamo di anoressia e tra l'altro, guarda, stavo proprio sfogliando una serie di riviste, le più diverse, da Famiglia Cristiana a Vanity Fair. Nelle ultime settimane la loro rubrica delle lettere era dominata e invasa da lettere di genitori che raccontavano il dramma di dover crescere una figlia adolescente che è entrata un po' nel tunnel di un disturbo del comportamento alimentare. È recentissimo tra l'altro l'allarme che ha dato la Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare, che ha affermato che nel nostro paese ci sono tra le 150 e le 200.000 donne ammalate di questo problema, e l'anoressia è la prima causa di morte per malattia tra le giovani italiane di età compresa tra i 12 e i 25 anni. Quindi i dati hanno lanciato un vero e proprio allarme e noi oggi di anoressia vogliamo parlare e lo faremo insieme a tanti ospiti. Alberto, iniziamo a presentarli. Sì, abbiamo con noi il professor Fausto Manara. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Professore, bentornato. Grazie dell'invito. È docente di psichiatria alla Facoltà di Medicina di Brescia e tra l'altro autore di un recente libro edito da Sperling proprio per i genitori, si intitola Con gli occhi dei figli, anoressia e bulimia, quello che i genitori possono fare. E in linea con noi anche c'è Albina Perri, buongiorno. Buongiorno. È autrice di un libro edito da Aliberti Editore che ci ha davvero colpito, oserei dire un po' sconvolto, almeno a me come mamma, Magre da morire, un'indagine shock sull'anoressia in rete. È stato un lavoro grande, come le è venuta questa idea? Ma io sono una giornalista di Libero e quindi già per il giornale tempo fa mi ero occupata del problema dei siti internet che parlano e sponsorizzano l'anoressia. Un articolo di giornale ovviamente ha un tempo e uno spazio limitato, quindi ho pensato di fare un'indagine più approfondita perché l'argomento meritava. L'anoressia entra in rete, ma Alberto, come entra in famiglia? Come mai dilaga così a macchia d'olio tra le ragazze, ma non solo, colpisce anche i ragazzi? Sì, ne parleremo anche più avanti, è proprio una cosa che ci dicono gli esperti e tra l'altro alla quale entrambi gli autori dei due libri e i nostri ospiti hanno dedicato spazio nei loro libri, interessa proprio sempre di più anche la popolazione maschile. Professor Manara, perché secondo lei? Perché il disagio trova tante strade e quello che la cultura, i modelli mettono a disposizione diventa una strada preferenziale, una cattiva idea che viene seguita in momenti di solitudine, in momenti di insoddisfazioni, in momenti in cui una ragazza, più spesso che un ragazzo, ha la necessità in qualche modo di mettere in qualche modo in evidenza la propria sofferenza. Io parto dal presupposto che oggi i figli parlano con i genitori sempre più spesso attraverso i sintomi che non con le parole, e l'anoressia è un modo clamoroso per dichiarare la propria infelicità. Io vorrei partire ascoltando una lettera che ci ha mandato una mamma e da cui poi prenderemo degli spunti importanti di riflessione e di confronto. Ascoltiamola. Sono mamma di Fiorella, 17 anni, un'adolescente meravigliosa che da 2 anni ha deciso di combattere una sua personale battaglia contro il cibo. Da lei è definito il nemico numero 1 della sua esistenza. Per molto tempo abbiamo fatto finta di non accorgerci che Fiorella stava entrando in un territorio molto pericoloso. Mangiava poco e noi facevamo finta di niente. Pensavamo che si trattasse della solita mania delle ragazzine che vogliono essere magre, Ma 6 mesi fa una professoressa di Fiorella ci ha convocato a scuola. Ci ha detto di essere alquanto preoccupata. La ragazza era troppo magra e tra l'altro suscitava una strana ammirazione tra le sue compagne. Stava diventando contagiosa. Abbiamo cominciato a fare più attenzione e ci siamo resi conto che le cose erano degenerate. C'era cibo nascosto dappertutto e tra l'altro Fiorella chattava con altre ragazze in siti web che declamavano i vantaggi della denutrizione e dell'anoressia. Siamo corsi ai ripari, anche se tardi purtroppo. Oggi tutta la famiglia frequenta con modalità diverse un centro che cura i disturbi del comportamento alimentare. È un viaggio faticoso che spesso mi spaventa. Mio marito è più disorientato di me. Se solo avessimo dato retta ai primi segnali del problema, forse ora la situazione non sarebbe così grave. Ditelo a tutti i genitori di non voltare la testa dall'altra parte quando una figlia comincia a mettersi a dieta e poi non sa più fermarsi. Alberto, è una lettera molto accorata, piena di messaggi più o meno diretti per tutti noi che in famiglia abbiamo un figlio o una figlia adolescente. Guarda, io leggendo questa lettera mi sono sottolineato alcuni passaggi che secondo me sono importanti da mettere al centro della nostra riflessione. La prima osservazione che faccio è che c'è stato bisogno dell'occhio dell'insegnante, di una sorta di occhio esterno alla famiglia che vede quello che per molto tempo rimane invisibile invece agli occhi dei genitori e in qualche modo fa luce su un problema che ormai è uscito di controllo. La seconda frase che mi ha molto colpito è la strana ammirazione che una ragazza anoressica riesce in qualche modo a provocare nelle sue compagne di classe e che potrebbe generare proprio in microambienti, in come è un gruppo classe, delle forme di epidemia. E il terzo aspetto che effettivamente è sconvolgente per noi adulti e sconosciuto ai più è questa modalità poi di coltivare la propria malattia, il proprio problema dentro a siti di cui noi adulti non sappiamo niente, ma che alle ragazzine effettivamente non fanno altro che rinforzare il loro percorso di problematicità e di malattia. Professor Mannara, questa mamma dice: ditelo a tutti gli altri genitori di non sottovalutare i primi segnali. Allora, iniziamo da qui. Quali sono i primi segnali e cosa non deve essere assolutamente sottovalutato dai familiari delle ragazze, dei ragazzi, degli adolescenti? È vero che ci sono i primi segnali che vanno sul comportamento alimentare e che spesso sono sottovalutati o non visti. Io ho visto poco tempo fa una mamma che mi è venuta a parlare della figlia dicendomi: ho messo mia figlia sulla bilancia, ho visto che pesava 37 kg, per cui sono preoccupata, le vengo a parlare. Voglio dire, la miopia dei genitori nei confronti dei figli è tale che può arrivare fino a questo punto, ma c'è una miopia precedente. I figli dei segnali li danno anche prima che si instauri un disturbo alimentare, che ne so, uscire poco di casa, incontrare raramente gli amici, un ottimo rendimento scolastico, che anche questo spesso è un sintomo. Insomma, tutto un corredo di situazioni che danno la misura, dovrebbero dare i genitori la misura che un figlio, una figlia, sta attraversando un momento difficile e che vengono sottovalutati. E poi, vabbè, certo, cominciano i problemi con i cibi, i problemi con il corpo, i problemi con il peso. E qui, sa, altro è un periodo transitorio di dieta, questo ormai è diventato un elemento diffuso perché una ragazza vuole sentirsi un pochino più snella. Altro invece è quella che si chiama la mentalità da dieta, cioè il fatto che la dieta diventa una costante nella vita di una ragazza. Questa casa non è un albergo. Magre da morire, oggi parliamo di anoressia. Alberto, volevi aggiungere qualcosa a quanto già descritto dal professor Mannara? No, mi sembra che ci abbia fornito un quadro completo, cioè c'è una serie di fattori di rischio, di segnali di disagio che in qualche modo entrano in una famiglia e che possono poi organizzarsi in un vero e proprio disturbo del comportamento alimentare. Ma c'è anche una fascinazione che spesso le ragazze in particolare scoprono navigando per esempio in internet e che può avere effetti davvero pericolosi. Chiedo ad Albina Perri, perché abbiamo letto tutto il suo libro, spalanca la porta rispetto a un mondo di siti web di cui effettivamente io, per esempio, ero totalmente all'oscuro, parlando di siti Mia, siti Proana, molto usati, molto visitati dalle ragazze adolescenti. Ci aiuta a capire di che cosa si tratta, da chi sono frequentati? Tra l'altro, la mamma che ci ha scritto è veramente andata in allarme quando si è resa conto che sua figlia, oltre alla perdita di peso, aveva anche questa navigazione in siti di questa natura. Sì, oltretutto anche il numero dei siti è abbastanza inquietante, perché solo in Italia sono almeno 300.000, per cui un numero che non ci aspetteremmo. Sono siti creati e gestiti dalle ragazzine, dove si possono trovare dalle loro esperienze quotidiane ai comandamenti, alle regole, ai consigli per non essere scoperte, ai consigli per dimagrire, e quindi si viene a creare una rete in cui una ragazzina che vuole perdere peso o che pensa di non essere all'altezza della situazione può trovare tutta una serie di supporti sia morali che pratici, perché appunto abbiamo i motivi per non mangiare, abbiamo come fare per vomitare, perché non è solo anoressia ma è anche bulimia, tra l'altro molto diffusa. Albina Perri, io vorrei far ascoltare un breve estratto dal suo libro, che poi altro non è che un messaggio lasciato da una ragazza in uno dei siti che lei ha studiato. Andiamo a sentirlo. È quasi fatta. Quasi abbiamo vinto. Ancora mezzo chilo. E gli agognati 35, raggiunti solo una volta in tutto questo tempo, saranno miei. Non posso più mollare. Non posso permettermelo. Perché scendere dal 36 è ogni volta più difficile. E il cuore ne risente sempre di più. Infatti non mi sembra che sia mai stato in condizioni così pietose. Fitte spaventose, palpitazioni. Ma cosa dovrei fare? Rinunciare a tutto ciò per cui ho combattuto finora? Per ritrovarmi domani a dannarmi, per riuscire a tornare al punto di oggi? Non credo. Professor Manara, di fronte ad un messaggio di questo tipo, noi genitori, gli adulti, rabbrividiscono, ma lei sicuramente come esperto legge tra le righe qualche cosa di diverso. Il problema è che in una situazione come questa occorre andare alla radice del perché mia figlia deve ricorrere a questo espediente tragico per rappresentare se stessa, perché mia figlia non ha la percezione di avere altra qualità che quella di essere magra per potersi proporre agli altri. E se si va su questa pista, anche i genitori possono avere una schiarita maggiore sul significato che ha quello che purtroppo viene considerato solo attraverso l'esteriorità, attraverso la magrezza, attraverso il rapporto con il cibo. Poco viene considerato, molto dei media anche in questo senso, poco viene considerato per quello che riguarda il senso che per una ragazza ha un comportamento alimentare che la porta a pesare 35, ma anche 30, ma anche 25 kg fino ad arrivare a condizioni che possono portare a morte, perché non dimentichiamo che di anoressia si muore. La bulimia si muore dalla seconda delle ricerche dal 5-8%. E poi compromette, professore, poi qua chiedo aiuto anche ad Alberto come medico, e poi compromette la salute futura della ragazza. Ma io volevo chiedere a voi, molto spesso si sente dire che le ragazze anoressiche hanno un cattivo rapporto con la madre. Questa figura viene spesso tirata in ballo come fosse qualche cosa, no, che scatena poi questa ossessione nei confronti del cibo. Alberto, le mamme c'entrano, il rapporto con la mamma c'entra? È stato dimostrato, è una supposizione, l'avete accantonata? Allora, in realtà non esiste l'anoressia, ma esistono le anoressie, cioè dentro ogni storia clinica delle giovani pazienti ognuno può rintracciare, ricostruire proprio un filo che può ricondurre a molti diversi modi di far insorgere un problema di questa natura. È chiaro che e quando si incontra una ragazza anoressica è molto visibile questo, che c'è un congelamento totale nella capacità di riconoscere e di vivere profondamente il proprio mondo emozionale, di dare valore alle proprie emozioni e di usare le emozioni nella relazione. Ed è molto vero che noi ci costruiamo il nostro, in qualche modo, equilibrio emotivo, lo settiamo nelle relazioni che per noi sono state fondamentali, primarie, importanti. Quella con la madre è proprio una relazione cruciale per costruire il nostro equilibrio emotivo. Può essere che in alcune ragazze anoressiche la relazione con la madre ha realmente impallato l'equilibrio emotivo di una ragazza, e a questo punto il percorso anoressico è una delle modalità con cui questa fatica emotiva viene raccontata. Veniamo anche ad un altro imputato, che sono i modelli che vengono dati, lanciati alle ragazze dalle immagini di copertina, da questi fisici molto asciutti delle modelle. Anche in questo caso possiamo considerarli colpevoli della diffusione dell'anoressia? Io vorrei fare un giro di tavolo, Alberto, il professor Manara e Albina Perri. Guarda, io comincio proprio da un po' operatore di sanità pubblica a dirti una delle cose che mi ha sempre colpito occupandomi di questo tema, ed è la presenza del problema dell'anoressia nelle donne delle isole Figi. Fino agli anni 80 le donne delle isole Figi non avevano problemi associati ai disturbi del comportamento alimentare, e tra l'altro avevano proprio, incarnavano un modello di bellezza femminile molto possente, molto potente. Queste isole sono diventate poi la meta del turismo internazionale, sono state dotate di ripetitori satellitari, e quindi il mondo dei media occidentale è entrato nelle case oltre che negli alberghi delle isole Figi. E un aspetto che ha colpito tutti è che nel giro di circa 10 anni le isole Figi dovevano in qualche modo realizzare i loro primi servizi per la cura dei disturbi del comportamento alimentare, che si erano enormemente diffuse tra la popolazione femminile locale, che tra le altre cose, partecipando poi a molte ricerche, dimostrava di aver completamente modificato la percezione di quello che è l'idea del corpo femminile ideale, spostandolo molto di più verso il modello di un corpo molto magro e molto asciutto, come i media stavano comunicando in quel momento alle donne di tutto il mondo. Sull'onda di Magro e Bello. Esatto. Professor Manara, questo aspetto lei l'ha toccato anche nel suo libro. Secondo lei che peso hanno queste, qual è l'apporto più o meno diretto che le immagini delle top model danno a questo problema? Se vediamo la curva di crescita del numero di persone che soffrono di disturbi alimentari, in particolare di anoressia, vediamo che va di pari passo con il cambiamento dei modelli estetici che sono proposti. Non dimentichiamoci che fino agli anni 90, ai concorsi di Miss Italia, il 90-60-90 di misure era ancora un modello molto gettonato e raccomandato. Oggi vediamo che queste misure non valgono più. Per le ragazze queste misure sono misure assolutamente abnormi, che escono dal desiderio e da quello che è il progetto con cui proporsi. Io volevo tornare, se posso uscire fuori il tema un attimo, indietro di un passetto, perché non ci sono solo le mamme, volevo dire, tra le cause dell'anoressia. Non dobbiamo dimenticare i papà, che sono in genere, come dire, sono dimenticati dalle cause di queste malattie, ma hanno una importanza non trascurabile. I papà assenti, che sono una costante, o comunque una costante relativa, nella struttura della famiglia di ragazze anoressiche e bulimiche, sono papà che sono vissuti, noi stiamo facendo una ricerca proprio in questo periodo nel mio centro, sono vissuti come padri alla stregua di quelli che abusano, cioè l'abuso psicologico dell'assenza di un padre è qualcosa che può scatenare delle reazioni emotive che possono portare all'anoressia. Quindi le mamme sì, hanno le loro responsabilità, sono iperprotettive, non garantiscono la possibilità di una buona autonomia delle figlie, però i papà hanno anche loro un ruolo notevole. I papà in genere sono quelli che accettano meno la malattia, la capiscono meno. Lavorare con i padri è più difficile con le madri. Infatti, professor Manara, nella lettera della mamma di Fiorella dice: mio marito è ancora sconvolto, non si capacita, non riesce ancora a stare dentro alla situazione. Vorrei chiedere ad Albina Perri che cosa vede, entrare con lei nuovamente in rete per capire che cosa, no, se oltre ai consigli di come rimanere magre, come scendere sempre di peso, ci sono anche delle confidenze tra le ragazze che parlano magari del ruolo dei genitori o dei modelli a cui si ispirano. Assolutamente sì, i genitori sono visti comunque come qualcuno da cui difendersi, perché possono accorgersi della malattia e quindi possono costringere le ragazze a curarsi. E quindi le madri soprattutto, dei padri si parla molto poco tra di loro, però è chiaro che nel momento in cui una ragazza rifiuta il cibo, in qualche modo rifiuta anche di approfondire dei rapporti affettivi, tiene alla larga anche le possibili delusioni, quindi un padre assente, un padre, come diceva il professore, che non c'è per una bambina piccola, può essere in qualche modo una mancanza. Certo. E quindi può scatenare queste problematiche. Questa casa non è un albergo. Allarme anoressia, e noi di anoressia parliamo oggi. Questa casa non è un albergo, un tema difficile ma dai numeri molto impattanti che ci fanno paura. Ne parliamo con tanti ospiti, il professor Manara, Albina Perri, naturalmente il nostro Alberto Pellai che ci guida, ci dà qualche indicazione. Alberto, abbiamo messo sul banco degli imputati sicuramente il rapporto con i genitori. Io avevo chiesto per le mamme, ma il professor Manara ha coinvolto naturalmente anche il papà, un tipo di papà assente. Con Albina Perri siamo andati in rete, questi siti che sostengono e aiutano le ragazze a diventare sempre più magre, magre da morire, e abbiamo anche considerato il ruolo dei modelli, ne parliamo sempre, della moda, di queste modelle scarnissime, di queste ragazze che se non sono dei grissini non si piacciono, non si sentono belle alla moda, del gruppo. Certo, ed è molto interessante, leggendo il libro di Albina Perri, lei ha dedicato un capitolo proprio a persone che lavorano dentro il mondo della moda, che come tutti i rappresentanti di questo mondo continuano a smentire: la moda non può essere la causa di una malattia così grave. E io mi sento di dire, un po' di nuovo da ricercatore epidemiologo, che infatti non è la causa. Dire la causa vuol dire che c'è un nesso causa-effetto, una sorta di sequenzialità diretta. È molto però interessante, leggendo cosa le ragazze scrivono in tutti questi blog pro Ana, vedere quante volte nel loro immaginario, nella loro fantasia, il corpo magrissimo di alcune modelle è il riferimento costante per perseguire nel loro obiettivo. Quindi dentro lo stesso libro di Albina c'è un po' questa contraddizione, che è quella che leggo anche nel panorama, nel dibattito culturale intorno al tema. Da una parte la moda che si tira fuori, sarà mica colpa nostra se le ragazze, certo, si ammalano di una roba così grave. Contemporaneamente poi, entrando nelle parole delle ragazze, il riferimento a queste top model proprio magerrime è costante e continuo, è proprio entrato nella loro mente. Rimando ad Albina, perché lei che ha visitato così tanti siti, vorrei capire da lei se l'ha avvertita questa ambivalenza, questa contraddizione di fatto. Assolutamente, le ragazze adorano le modelle, più sono magre più le adorano, tra l'altro non tutte le modelle, ma quelle proprio pelle e ossa. Si scambiano le fotografie come dei santini su internet, per cui c'è questo giro di immagini nei backstage dove si possono vedere le modelle mezzo svestite, per cui con le costole in vista, e le ragazze ci passano le notti a guardarsi queste fotografie, a commentarle e a cercare di diventare come queste modelle, quindi sicuramente per loro sono un punto di riferimento. Tra l'altro nei vari consigli, motivi per non mangiare eccetera, c'è proprio: sarai uguale alle modelle, quindi per loro questo è un punto fondamentale. È chiaro che se una ragazza non è malata di anoressia, perché comunque di una malattia si sta parlando, non avrà questo tipo di reazione di fronte alla fotografia di una modella smagrita. Quindi, come diceva Alberto, non è una causa, però sicuramente per le ragazze è un pilastro vedere queste modelle così, così magre. Quindi io, Nicoletta, proprio in modo anche un po' provocatorio, utilizzo proprio questa trasmissione, se tu sei d'accordo, per dire che non si può tagliarsi fuori. Certo. Bisogna proprio sentirsi non responsabili, ma corresponsabili. E siccome chi sta nel mondo dei media, della comunicazione, anche io e te, Nicoletta, con questo programma diamo il nostro contributo, costruisce davvero la cultura che viene poi condivisa dalla gran parte delle persone che usufruiscono di questi media. È proprio importante che la moda faccia una riflessione profonda al proprio interno e sappia che bisogna proporre corpi di donna che sono raggiungibili, sani, e non buttare su una passerella invece corpi impossibili. Professor Manara, comunque l'anoressia, al di là della moda, e quindi io credo sposo l'invito di Alberto, ciascuno è un po' responsabile di quello che arriva nella società, che la società sviluppa, soffre, vive, ma abbiamo detto che è una malattia, possiamo definirlo una malattia multifattoriale, per spiegare che alcune ragazze, ragazzi si ammalano di anoressia, altri invece, nonostante abbiano dei genitori assenti, nonostante siano circondati da e immagini di modelli anoressiche, rimangono dei ragazzi normopeso che con il cibo continuano ad avere un atteggiamento assolutamente sano. Sì, sì, sicuramente l'origine dell'anoressia è multifattoriale, ci sono fattori familiari, fattori sociali, fattori che riguardano il mondo dell'immagine. Il problema è che questa malattia, che è una malattia mentale, l'anoressia come pure la bulimia, è una malattia dell'anima, non è solo una malattia del corpo, il corpo ne è la rappresentazione, ecco, la rappresentazione drammatica. Il problema è che in queste malattie sono malattie che pescano certamente in questo mare di modelli di riferimento. Le modelle non sono affascinanti per queste ragazze solo perché magre, sono affascinanti perché con la loro magrezza si sono rappresentate e hanno vinto, sono diventate persone che vengono pubblicate sui giornali, che vanno sulle copertine, e in un mondo dell'immagine come questo, la miscela di magrezza vincente e di apparenza in veste di prime donne, così come per le modelle, è sicuramente qualcosa di affascinante. Per quello che riguarda il messaggio che lanciava prima Alberto al costruttori di moda e costruttori di modelli, io sono molto pessimista in questo senso, perché ci ha provato Zapatero e non è successo niente, ci ha provato la Melandri in Italia con l'Accademia della Moda, è stato fatto un accordo perché non sfilassero più modelle malate e non è successo niente. Il problema è che la cultura è questa e non cambia. Gli stilisti non rinunceranno mai, purtroppo, alla loro, come dire, aggressività nei confronti della donna e valorizzazione di quello che la donna deve avere addosso. E quindi in una situazione come questa io torno a dire che i genitori sono quelli che devono cercare di dare ai figli degli anticorpi più grossi, più tonici, per poter affrontare una situazione che è questa. Insomma, dopo che insomma chiusura un po' di questa discussione che richiederebbe sicuramente molto più tempo e ci torneremo, vorrei, identificato un po' il problema e tratteggiato, passare dalla teoria alla pratica. Uso la parola prevenzione, so che è una parola forte, che forse non adatta per questo tema, ma si può fare prevenzione. La famiglia, Alberto, che cosa deve fare? I modelli ci sono e quindi entrano nelle nostre case. Il lavoro spesso porta fuori casa i genitori, i ragazzi tante volte sono difficili, no, da penetrare, da intrattenere, da scoprire. Volete darci ciascuno dal proprio osservatorio dei consigli pratici, che possono essere magari delle banalità su cui però noi riflettiamo per cercare di evitare il problema o di individuarlo proprio nelle fasi iniziali? Ma io ti do la mia parte, cioè il primo modo con cui un bambino o una bambina costruisce un'immagine sufficientemente buona a livello mentale del proprio corpo è il riflesso dello sguardo che la sua mamma e il suo papà sanno porre su di lui o su di lei come bambino, in quanto persona, in quanto corpo. Quindi tanto più è amorevole, affettuoso emotivamente coinvolto lo sguardo di una mamma e di un papà, tanto più quel bambino userà quello sguardo per pensare che anche il suo corpo fa parte di lui in un modo positivo e, indipendentemente da come quel corpo realmente è un suo ausilio per diventare l'uomo e la donna che saranno. Quindi guardate i vostri figli con affetto. Albina. Io prendo spunto dal decimo comandamento delle anoressiche: essere magro e non mangiare sono simbolo di vera forza di volontà e successo. Ecco, io credo che un genitore debba scardinare questo punto. La forza di volontà e il successo non si misurano con l'essere magri. Certo, Achilli. Esatto, quindi questo è un lavoro da fare ovviamente nel tempo, quando i bambini sono ancora piccoli. Per quanto riguarda internet, se non è giusto avere un controllo eccessivo dei siti che le ragazzine frequentano, è chiaro che un occhio un genitore deve darlo. Sì, soprattutto perché si sta parlando di ragazzine che hanno 11-12 anni, mm-hmm. quindi non la diciottenne, la ventenne, che in qualche modo è strutturata, ma ragazzine molto piccole e molto manipolabili. E quindi un occhio d'attenzione quando sono così piccoli a quello che fanno su internet è fondamentale. Professor Manara, un minuto per dare un consiglio ai genitori. Sì. Alberto e Albina si sono concentrate sui bambini piccoli. Io vorrei invece a lei chiedere una cosa più difficile. Andiamo sugli adolescenti. La prevenzione passa per l'aiuto a costruire o a ricostruire un'autostima ragionevole. Ormai questo è assodato in tutto il mondo, tutti i programmi di prevenzione sono indirizzati in questa direzione e non in altre. Il problema che oggi abbiamo in più è che le figlie, le ragazzine che hanno 10, 11, 12 anni e che cominciano ad avere disturbi alimentari, purtroppo hanno madri che hanno a loro volta disturbi alimentari, hanno un rapporto col cibo alterato, e quindi anche il considerare che la tavola diventi il luogo nel quale si possa ricostruire un clima di relazione ragionevole, nel quale si possa parlare tutti avendo la propria voce ascoltata dagli altri commensali, e un luogo dove non ci siano problematiche espresse nei confronti del cibo, di quel che si mangia, di quello che si può ingerire, tutto sommato può essere un primo passo per evitare che quantomeno le preadolescenti comincino a entrare in un rapporto con il cibo che poi diventerà problematico. Certamente, per quel che riguarda gli adolescenti, quello che i genitori non hanno fatto prima lo possono sempre far dopo. Se non si sono aiutati i figli a diventare consapevoli di loro stessi, un aiuto può sempre essere dato e un'azione di recupero può essere sempre fatta. Allora ringrazio Alberto, ringraziamo i nostri ospiti che ci hanno aiutato a trattare un tema abbastanza difficile come quello dell'anoressia, torneremo a parlarne. È un tema importante, i loro libri sono due buoni ausili, Con gli occhi dei figli, Fausto Manara, Magre da morire, Albina Perri. Allora professor Manara e Albina Perri, arrivederci, ci sentiamo presto, buona giornata. Arrivederci. Altrettanto. E per oggi è tutto, un saluto da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.